in primo piano. Il Sole 24 Ore sceglie il referendum Mirafiori, sceglie il suo destino. Questo è il titolo di apertura, Mirafiori sceglie il suo destino, e il referendum che si è aperto ieri, in serata ci saranno i risultati. Per il resto è tutta una scelta sul legittimo impedimento, valuterà il giudice, così il Corriere della Sera. Berlusconi scudo dimezzato per Repubblica, è di nuovo imputato, questo è il Fatto Quotidiano. Il Giornale invece non si va a votare, Berlusconi spiazza tutti. Insomma, la scelta è sul legittimo impedimento, queste sono le aperture della gran parte dei quotidiani. Io invece voglio partire da altro, come di consueto, da due segnalazioni. La prima è dalla Stampa, pagina 23. Poi uno dice che c'è la crisi. Certo, c'è la crisi, ma non per tutti. Per la sceicca, un treno espresso da 100.000 euro. È il racconto di una sceicca saudita anonima, perché c'è la privacy, che ha affittato un treno da 1.000 una notte, 100.000 euro, 50.000 l'andata, 50.000 il ritorno, un treno da 80 posti, lo racconta Fabio Poletti, a pagina 23, per venire da Ginevra a Milano e fare shopping nel quadrilatero della moda. C'è anche una foto di questa sceicca saudita circondata da staff e guardie del corpo, c'è la foto del treno all'interno. Accoglie il cronista della Stampa René Bubendorf, uno svizzero di Basilea impettito in livrea, guanti bianchi, come un maggiordomo dei tempi andati, uno che ha fatto una società, affitta questi treni, tre treni davvero di lusso, per scarrozzare un po' ovunque, basta che ci siano un paio di binari alla partenza e all'arrivo, e per la modica di 50.000 euro, prezzi non scontati, del biglietto all'andata e il biglietto al ritorno, dunque fanno 100.000, vi scarrozza un po' dove volete. E allora c'è il racconto di questa follia, la racconta la Stampa, follia del lusso, affiancata ad altre follie. Per esempio, ricordate chi ha speso 35 milioni di dollari per fare un giro nello spazio sulla navicella russa Soyuz? Il fondatore del Cirque du Soleil, Guy Laliberté, canadese. Oppure si ricorda che quest'anno a una festa del magnate ucraino Viktor Pinchuk, per i suoi 50 anni in Francia, sono stati affittati un locale e sono stati procurati 6 kg di tartufi bianchi d'alba. 6 kg di tartufi, non voglio sapere il conto. Oppure Abramovic, il patron del Chelsea. Sapete quanto? No, quanto ha speso non si sa. Ma per l'ultimo capodanno, quello di qualche giorno fa, nella sua tenuta sull'isola di St. Barth ai Caraibi, ha invitato niente meno che i Black Eyed Peas per fare la colonna sonora di sottofondo. Insomma, follie del lusso, quella raccontata dalla Stampa. Per la sceicca, un treno espresso da 100.000 euro per venire a fare shopping un giorno a Milano. Poi va aggiunto il conto dello shopping, immagino. La seconda segnalazione conquista addirittura la prima pagina del Secolo XIX, la polemica. La polemica è tra il ministro Mara Carfagna e Oliviero Toscani. Oliviero Toscani ha fatto una delle sue, l'ultima, no? Chiamato a lavorare dal consorzio Verapelle Conciata al Vegetale, che ha fatto? Ha fotografato 12 triangoli pubici e li ha messi in bella vista sul calendario promozionale del consorzio. Ebbene sì. E Mara Carfagna si è definita scandalizzata, una scelta offensiva, assolutamente. Al che Toscani, che ha fatto? Mica è uno che indietreggia. Ha detto: scandalizzata per questo calendario? Il ministro ha forse dimenticato che nella sua vita precedente aveva posato per un calendario non certo menosè. Allora Toscani ha rincarato la dose così. Il calendario della Carfagna era proprio volgare, non il mio. Anzi, avrei dovuto farglielo io quel calendario. Allora sarebbe diventata più bella, sarebbe diventata primo ministro e non solo ministro per le pari opportunità. Insomma, questa è la polemica sull'ultimo calendario di Oliviero Toscani. Tra l'altro l'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria vuole bloccare questo calendario, è già in edicola ma lì rimarrà, ha tuonato il presidente dell'Istituto. Toscani anche qui non ha indietreggiato, ha risposto che se ne frega, vuole arrivare fino in fondo, nudo alla meta, scrive Roberto Scarcella sul Secolo XIX, ed eccola qui, servita sul piatto la nuova polemica, questa volta Carfagna, Toscani e la guerra del pube. La notizia con la quale aprono la maggior parte dei quotidiani, abbiamo visto, è quella della decisione della Corte Costituzionale sul legittimo impedimento, vale a dire la bocciatura in parte, legittimo impedimento parzialmente giudicato illegittimo, la Consulta di fatto ha riconosciuto il principio secondo il quale il Premier e i Ministri hanno motivi specifici per non presentarsi in udienza, ma l'impedimento non può essere automatico, sarà il giudice a valutare di volta in volta se è giustificata l'assenza al processo. Ovviamente ci sono tantissimi commenti. Per il Corriere della Sera, pagina 3, l'umore di Berlusconi è questo: salvato il principio, sono sereno, non mi aspettavo niente di diverso. A dir la verità ci sono retroscena un po' diverse e letture diverse da parte dei vari quotidiani. Per esempio quella apparente calma di Silvio Berlusconi, secondo Repubblica, è appunto un'apparente calma. In realtà Berlusconi sarebbe molto arrabbiato per questa sentenza. Francesco Bei, a pagina 3 di Repubblica, racconta: Berlusconi vuole sfidare i magistrati, una sentenza sovversiva, li sbugiarderò, non mi aspettavo nulla di diverso, hanno scritto una sentenza sovversiva. Questi sono virgolettati, come al solito, attribuiti al Presidente del Consiglio. La sovranità è nelle mani dei giudici, la volontà del Parlamento non conta più nulla, i miei avvocati erano ottimisti ma io ho sempre saputo che sarebbe finita così, da questa corte non mi aspettavo nulla di diverso. E tra l'altro un Berlusconi che, dice Repubblica, a questo punto spingerebbe sulle elezioni, l'ipotesi di voto viene data da Repubblica come data il 22 maggio. Basta prendere un altro quotidiano, Il Giornale, per vedere come viene posta in maniera totalmente diversa. Il Giornale: Berlusconi spiazza tutti, non si va a votare. La Consulta zoppa il legittimo impedimento, porta i giudici dentro il governo, ma il Premier tira dritto, andrò ai processi, meglio la gogna che danneggiare il paese. E allora non si capisce. La Stampa, per esempio: Berlusconi, vado avanti, il bicchiere è mezzo pieno. Nessun commento ufficiale, anche se, l'abbiamo sentito anche nel GR, il commento in realtà ufficiale ci sarà, perché Berlusconi molto probabilmente questa mattina interverrà nella telefonata su Canale 5 che fa il direttore di Libero, Belpietro, credo poco prima delle 9, e quindi Berlusconi molto probabilmente interverrà, e a quel punto, ecco, ci sarà il primo commento ufficiale, tanto che da lì si capirà anche molte cose, cioè se davvero c'è il bicchiere mezzo pieno, se Berlusconi è parzialmente soddisfatto, o se Berlusconi, come racconta Repubblica, che invece giudica questa decisione una decisione sovversiva. Sta di fatto che Stefano Folli, in pagina 7 del Sole 24 Ore, nel suo consueto commento sulla politica, Il Punto, dice e scrive: una sentenza da rispettare in un quadro generale che si logora, questo è il titolo. A questo punto, scrive Folli, è bene che il Presidente del Consiglio si attenga al proposito manifestato due giorni fa alla vigilia della sentenza. La pronuncia della Corte, aveva detto Berlusconi, non influirà sulle attività di governo. Il che oggi significa due cose. Primo, rispettare il verdetto della Corte Costituzionale senza commentarlo distinto, evitando le asprezze polemiche del recente passato. Secondo, vedere il bicchiere mezzo pieno, anche se forse si tratta di un bicchiere mezzo vuoto. Al momento, continua Folli, Berlusconi ha tutto l'interesse a mantenere i nervi saldi, il compromesso non è destabilizzante per gli equilibri di governo, non decapita il Presidente del Consiglio, una consolazione a metà. Forse la legge sarebbe stata più efficace, avrebbe superato il vaglio della Corte se a suo tempo fossero stati accettati gli emendamenti proposti da Vietti, allora esponente dell'UDC, oggi vicepresidente del CSM, ma è andata così. Di fatto però la sentenza non costituisce una spinta verso le elezioni anticipate, perché non taglia la strada al governo e si limita a rendere più faticoso il cammino di Berlusconi come premier. Allora, questa sentenza spinge verso le elezioni anticipate, non spinge verso le elezioni anticipate, secondo Repubblica sì, secondo Il Giornale assolutamente no, secondo Libero invece ora, scrive Belpietro, c'è un solo modo per uscire dalla trappola: andare al voto al più presto. Questo il titolo di apertura di Libero sotto il titolone Silvio consegnato ai giudici, mentre il Fatto Quotidiano che puntava sul principio di uguaglianza da giorni titola in prima pagina: è di nuovo imputato, la Corte Costituzionale rispedisce Berlusconi davanti ai giudici dichiarando che il legittimo impedimento studiato per garantire al Premier l'impunità è in gran parte illegittimo. E viene dipinto così a pagina 3 del Fatto l'intervento annunciato da Berlusconi questa mattina su Canale 5, stamattina Blitz TV del Caimano. In prima pagina del Manifesto, Vauro, nella sua vignetta consueta, la vede così: c'è un giudice sotto la scritta stop al legittimo impedimento che, ghignando, dice: rientri l'imputato. E allora, questa è sicuramente la notizia politica del giorno. L'altra è quella di una, come dire, qualcuno l'ha definita una vera e propria spaccatura, altri almeno una forte tensione che si registra all'interno del Partito Democratico. Ieri c'è stata la direzione del partito, per il Corriere conta nel PD, Bersani vince ma il partito è spaccato. Ecco qui appunto spaccatura, i veltroniani hanno scelto di non votare, ci sono anche un paio, vale a dire Gentiloni e Fioroni, che qualcuno dava quasi fuori dal partito. Gentiloni in realtà fa un'intervista al Corriere della Sera, dice no alla scissione, però hanno cercato la prova di forza su Alleanze e Lavoro, errori continui da parte del partito. Paolo Gentiloni dice sì, conferma, è un momento complicato nel Partito Democratico, cominciamo dalla Fiat. Io sfido a trovarmi un solo cittadino italiano, un solo lavoratore che abbia capito qual è la posizione del nostro partito sul referendum di Mirafiori. Effettivamente, insomma, il Partito Democratico si è spesso, aggiungo io, insomma, con vari esponenti in modo anche diverso su questa vicenda. E quindi Gentiloni dice: sul lavoro, per esempio, non c'è chiarezza. Penso che Bersani non abbia detto la sola cosa semplice che dovesse dire, cioè che, pur con tutti i distinguo da fare sui termini dell'accordo, noi avremmo votato compatti per il sì. Ed è questo che Gentiloni imputa a Bersani. Bersani se la prende con le posizioni assunte da Berlusconi, giustamente, altrettanto giustamente condanna la politica industriale del governo. Poi però non si capisce lui davvero cosa pensi, o si intuisce che è vicino alle posizioni della CGIL. Insomma, queste le accuse di Gentiloni. L'altro che attacca è Fioroni, che addirittura è più duro, dice: come Stalin hanno cercato di farci fuori. Ma è critico anche Matteo Renzi, vabbè, e non è la prima volta. Sulla Stampa, pagina 7, Matteo Renzi in taglio basso, è uno dei sindaci della periferia che manifesta disagio per quello che viene scelto a Roma, ma insieme a lui c'è anche Sergio Chiamparino, molto deluso. Chiamparino viene intercettato a dire questo: dentro questo partito ci sono sindaci e amministratori che da circa 10 anni godono del 60% della popolarità e non vengono mai ascoltati. Sergio Chiamparino sicuramente è uno di questi per quel che riguarda i termini di popolarità. Oppure Michele Emiliano, sindaco di Bari, che era nostro ospite ieri, ha definito così la direzione del partito a Roma: un'altra mano andata a vuota, noi viviamo su un altro pianeta, fatichiamo a decodificare questi geroglifici romani. Mentre Matteo Renzi, critico anche se si è limitato a qualche comparsata, sta di fatto che all'interno del Partito Democratico c'è molta, molta tensione e molto una vera e propria spaccatura anche su alcuni temi. Per esempio Chiamparino, anche lui sulla Fiat, come le critiche di Gentiloni, dice: non si capisce, dovevamo dire sì. E questo lo troviamo a pagina 13 dell'Unità. Il sindaco di Torino ha lasciato in anticipo la riunione sulla Fiat: non comportiamoci come tifoserie, il PD rispetterà l'esito del referendum, dovevamo dire sì a Marchionne. Sta di fatto che, come accusa Gentiloni, non c'è una linea chiara per quel che riguarda il partito. A proposito di politiche e polemiche, qualche giorno fa, sapete, c'era la vicenda del Kashmir rispolverata per le accuse di D'Alema in vacanza a St. Moritz, che poi non era St. Moritz ma era lì vicino, con D'Alema che si è giustificato con le scarpe che in realtà prese a Decathlon, la sciarpa che non era in Kashmir ma era una sciarpa un po' così, il giubbotto che non era nuovo ma era un po' vecchiotto. E adesso c'è una nuova polemica, sempre portata avanti da Signorini, dal suo chi, dal suo programma su Canale 5, su Bertinotti, che è stato pescato in una fotografia immortalata con la moglie alle Bahamas. E Bertinotti che ha fatto? Si è dovuto difendere, perché appunto il dibattito politico è di questo livello, e quindi Bertinotti ha dovuto rispondere: io alle Bahamas? No. ero alle Antille. Ed eccolo qui, ieri è intervenuto credo a Canale 5 e a pagina 10 del Corriere viene ripresa da Giovanna Cavalli la notizia. Io alle Bahamas? No, ero alle Antille. 1250 euro a testa, io e mia moglie. Una settimana con altoparlanti, gite, cotillon, tutto compreso. Non eravamo su un panfilo, non su una barca a vela, ma ammucchiati sulla tolda con 2600 persone come in una qualunque crociera popolare. Bertinotti sdogana, allora c'è anche la crociera popolare. Eccole qui le foto rubate di Bertinotti e moglie in maglietta, zainetto sul trenino caraibico. La giustificazione: non ero alle Bahamas, ero alle Antille. I Caraibi contengono isole anche come quelle di Bob Marley, di Fidel Castro. Ci sono passati pirati come Morgan e Drake, e quindi ci può stare anche un comunista. Questo dice Bertinotti. Erano per la verità fotografati a Tortola nelle Vergini Britanniche. Io non capisco questa animosità, dice Bertinotti, non mi pare fosse una condizione elitaria o aristocratica, vorrei parlare di Mirafiori e invece mi chiamate per queste cose qui, la sento come una violenza, ma sopporto col senso del dovere e la disciplina da militante del PC. E poi più diretta invece è la moglie di Bertinotti, la signora Lella. Che cattiveria dire le Bahamas, che sono molto più lussuose. Sa quanto abbiamo speso? 2.526 euro in due. C'erano 2.600 passeggeri, 900 persone dell'equipaggio sulla, credo, su una crociera, insomma, di queste, della costa, credo. La cabina l'ho prenotata in anticipo, mi hanno fatto pure lo sconto. Insomma, più nazional popolari di così non si può. Quanta malafede, che sfacciati. Eccola qui, nuovo fronte, Bertinotti pizzicato alle Bahamas, anzi alle Antille, che si deve difendere. Eravamo in una crociera popolare, altro che crociera elitaria. Il giorno delle scelte per Mirafiori, questo è il titolo di pagina 3 del Sole 24 Ore, l'apertura del Sole è proprio su questo, Mirafiori sceglie il suo destino, il voto sul piano Marchionne, 5.500 lavoratori dell'impianto voteranno, hanno iniziato a votare da ieri sera, i risultati ci saranno da questa sera, con sempre le tensioni che ci sono e anche il ministro del lavoro Sacconi ha ribadito con un eventuale no c'è il rischio di fuga dall'Italia e mentre il ministro dello sviluppo Romani nessuno immagina un risultato negativo a Torino. Certo, staremo a vedere come andrà la giornata. Io segnalo sulla Fiat un articolo molto, molto polemico, corrosivo di Libero, come spesso avviene al quotidiano di Belpietro. Certo, vai a trovarlo quando si perde tra i tanti quotidiani. Eccolo qua, Libero. Il giorno della verità per Mirafiori. Tra l'altro in prima pagina c'è una foto di Vendola e Fini in Mercedes. Una foto, un disegno. Di Vendola e Fini in Mercedes che fanno il classico gesto dell'ombrello. Il titolo è Pontificano su Fiat e guidano Mercedes. Di Franco Bechis e Enrico Paoli sono un po' le scelte dei vari politici, le scelte personali delle macchine che utilizzano. Pontificano sulla Fiat e poi guidano auto straniere. Ecco qua. Si comincia come al solito col presidente della Camera, Fini, che ha una Smart Coupé, una Mini Cooper e una 4 Cabriolet. Fino a qualche settimana fa, quando l'han pizzicato gli ex di AN, scrive Libero, aveva anche una BMW da 100.000 euro. Poi Giancarlo Tugliani, vabbè, il famoso cognato, con una Ferrari blu, è l'unico che difende i colori patri. E poi Italo Bocchino si è scelto una Audi 3, Giulia Bongiorno una Audi A2. Poi c'è anche un motorino Liberty della Piaggio. Quindi Dario Franceschini, che per se stesso ha dichiarato il possesso di una moto BMW d'epoca, una Suzuki Wagon R, e poi per la moglie però c'ha una Fiat Idea, quindi per la moglie ha una Fiat. Antonio Di Pietro, che ha comprato un potente SUV, la Hyundai Santa Fe. Tra l'altro Antonio Di Pietro sarà mio ospite alle 8:20, sarà il protagonista dell'intervista di oggi. Bersani, una Renault Megane. Massimo D'Alema, che aveva una Lancia Y, oggi dichiara una Smart e una Audi A3. Vannino Chiti ha lasciato la Fiat Punto e ora ha una Renault Clio, mentre Nicky Vendola, che peraltro è immortalato appunto col gesto dell'ombrello in questo disegno su una Mercedes, in realtà Nicky Vendola, scrive Libero, non ha alcuna auto in possesso. Tutto questo analizzato ovviamente dalle dichiarazioni che i deputati devono depositare in Parlamento. Vabbè, pontificano sulla Fiat e poi guidano auto straniere, questo è il titolo di Libero. Dovrebbe essere una giornata decisiva anche per quel che riguarda Roma. Sapete che Roma, il sindaco Alemanno ha azzerato la giunta. Per la verità, se voi leggete oggi i giornali, sono un po' datati, perché nella notte, e i giornali sono andati in stampa un po' prima, Alemanno pare abbia scelto i nomi per la nuova giunta, l'abbiamo sentito anche nel GR, al bilancio andrà un ex dirigente della Banca d'Italia, non ci sarà più l'assessore alla cultura Croppi che verrà sostituito dal delegato al centro storico Gasperini, lascia la giunta anche Fabio De Lillo che cederà l'ambiente a Marco Visconti, mentre sostituito anche l'assessore ai trasporti Sergio Marchi da Antonello Aurigemma. Insomma, ci sono vari cambi che sono stati trovati nella notte, le agenzie sono alle 3, alle 4 di notte e verranno annunciati ufficialmente oggi. A proposito di Roma, però, due notizie. La prima dal Sole 24 Ore, Gianni Trovati, a pagina 21: sono i romani i più tassati d'Italia. Abitare a Roma, scrive Gianni Trovati, costa in tasse locali il doppio che abitare a Milano. Sarete contenti, a Roma. E per i redditi più modesti la differenza arriva al triplo, dunque non al doppio. Per chi guadagna meno arriva al triplo il pagamento di tasse a Roma rispetto che a Milano. L'ultimo tassello del superfisco romano ha debuttato il 1 gennaio, rappresentato dall'addizionale extra sull'IRPEF comunale suggerita dalla manovra correttiva approvata dal governo Berlusconi prima dell'estate. Sta di fatto che i risultati sono questi. I romani sono i cittadini più tassati d'Italia. Con un reddito da 40.000 euro, regione e comune chiedono in totale 1.040 euro all'anno, cioè 280 euro in più dell'anno scorso, mentre un milanese se la cava con 467 euro. La differenza Roma-Milano, 222,7% di tasse da pagare in più per chi abita a Roma. Alla faccia di Roma ladrona. E sono i romani i più tassati d'Italia. L'altra notizia che trovate su Roma è quella che abbiamo sentito anche anticipata dal nostro Dario Ricci nel GR Sport, è che Alemanno si è perso il Gran Premio di Formula 1, nel senso che come anticipato ieri Repubblica, Bernie Ecclestone, il gran capo della Formula 1, ha detto no, due Gran Premi in Italia, Monza, Roma, non si può fare. E dunque ecco qui Formula 1 a Roma, la resa di Alemanno a pagina 9 di Repubblica. E tra l'altro segnalo anche uno strepitoso Gene Gnocchi oggi in prima pagina della Gazzetta, il rompipallone Alemanno contrario al GP di Roma, ha scoperto che tra i piloti non c'è neanche un suo parente. E poi trovate molte notizie di cronaca. Una che mi ha veramente sconvolto è quella che trovate su tutti i giornali, io ce l'ho qui da Repubblica ma c'è ovunque, Stampa, il Corriere. Operazioni inutili a Ragusa, arrestato primario. È una vicenda che ricorda quella della clinica Santa Rita a Milano, viene a Ragusa, shock in ospedale. È stato arrestato un chirurgo di fama, Ignazio Massimo Civello, primario di chirurgia toracica. L'accusa è quella di avere fatto delle operazioni inutili, inventandosi delle patologie anche di tumori gravi per i quali bisognava intervenire asportando anche degli organi vitali, ma in realtà, secondo l'accusa, in alcune operazioni, in almeno 4 di queste operazioni, le patologie erano inventate. Una donna, per esempio, le hanno asportato un rene sanissimo, sempre secondo l'accusa, ed ora è costretta alla dialisi. A un altro paziente sarebbe stato asportato del tutto lo stomaco, simulando un tumore inesistente. L'accusa è questa: asportava organi sani per che cosa? Per denaro, per far salire il costo degli interventi. Queste le accuse gravissime di cui dovrà rispondere il chirurgo Ignazio Massimo Civello, primario a Ragusa. E poi una vicenda davvero incredibile, abbiamo sentito anche nel GR, raccontata per esempio da Fulvio Buffi sul Corriere della Sera. Un cronista del Mattino di Napoli scopre, viene annunciato che c'è a San Giorgio a Cremano un omicidio, e scopre, andando sul posto da cronista, che la vittima è il padre. Il padre che tra l'altro ha assistito a un omicidio ed è stato dunque giustiziato come scomodo testimone dai killer. Scrive Fulvio Buffi sul Corriere: la notizia di un omicidio fa scattare in ogni redazione un meccanismo che grosso modo è sempre uguale. Il cronista incaricato di coprire il servizio parte verso il luogo dove è avvenuto l'agguato e lungo la strada cerca di avere le prime notizie. Telefona polizia, carabinieri, cerca di avere il nome della vittima. Così è stato ieri sera per Mary Liguori, corrispondente del Mattino di San Giorgio a Cremano, un paese dove è sensibile la presenza della malavita organizzata. E allora arriva la notizia di un omicidio, due le vittime, un malavitoso locale, Luigi Formicola di 56 anni, e il titolare dell'officina colpito per errore o forse ucciso perché testimone scomodo. E allora, quando Mary riceve la telefonata del suo capo, si mette in moto, va verso la zona e comincia a chiamare poliziotti e carabinieri per avere qualche informazione. Ma poliziotti e carabinieri non gliele danno, ed è chiaro perché lei li contattava, ma loro che la conoscono volutamente non le danno le notizie. Non è quello il modo di avvertire un familiare di chi è stato ucciso. E così, drammaticamente, arrivando sul posto, questa cronista del Mattino ha scoperto che la persona uccisa, molto probabilmente per sbaglio, era proprio suo padre. Ci fermiamo qui con questa segnalazione. Votate il sondaggio, la tassa sui turisti. Che ne pensate? Dopo Roma potrebbe arrivare per tutti i comuni italiani, lo prevede il federalismo fiscale. Tassare i turisti. Votate il sondaggio, il GR.